Nella nostra Carta dei diritti della lettura, che viaggia ormai verso il Parlamento europeo, si insiste sull'importanza dell'uguaglianza delle opportunità di formazione e sull'importanza di combattere l'analfabetismo di ritorno, perché va oltre alla carenza degli strumenti di base, leggere, scrivere e far di conto, e invece affronta il problema della perdita di competenze che accade in tutto il ciclo di vita di una persona e che può avere diversi fattori scatenanti: la mancanza di relazioni sociali adeguate, una scarsa integrazione nella partecipazione sociale, la mancanza di stimoli culturali ampi, diversificati, la mancanza della mobilità, diciamo, fisica, quindi un rimanere troppo a lungo nello stesso posto, soggetti a degli stimoli poveri che quindi impediscono in qualche modo l'allargamento, l'ampliamento di curiosità e quindi di conoscenza. E soprattutto la mancanza di stimoli che permettano di diventare domande di strumenti e quindi la necessità stessa da parte della popolazione di diventare un soggetto attivo e non passivo di formazione. E analfabeta, recita la nostra carta, chi dimentica la propria lingua familiare, perché in qualche modo perde anche tutto il repertorio di esperienze che quella lingua veicola e che permette di sentire come un valore il legame di appartenenza alla propria comunità. Questo avviene sia nell'ambito ristretto del dialetto, ma può avvenire anche nell'ambito più ampio della lingua nazionale, che non sentendola come un legame di appartenenza, ovviamente inficia anche lo stesso rapporto di legame di valore con il proprio paese. Quando noi parliamo di analfabetismo di ritorno, parliamo fondamentalmente di una perdita di capacità di usare le informazioni, di usare il sapere. L'istruzione e la formazione non sono prodotti di un obbligo, ma sono in qualche modo emanazione forte del riconoscimento di un diritto. Per costruire un tessuto umano e sociale in cui il cittadino possa crescere in tutto il suo ciclo di vita a livello di competenze, è importante, anche per acquisire l'abitudine a volerle conservare o accrescere, è importante che viva tutto questo come un diritto e non come un obbligo. La competenza linguistica è un valore. La capacità di saper usare le informazioni è il passaporto per crescere all'interno del mondo del lavoro. Ma questo significa anche allora che bisogna modificare la visione stessa del lavoro e il valore che si attribuisce al lavoro nella propria vita. Quando un'organizzazione del lavoro stabilisce responsabilità che non sono legate alle competenze, ma agisce sotto la spinta di tutt'altri fattori, questo fa perdere il legame importante tra valore appunto di una competenza e quindi poi valore del lavoro. Noi assistiamo a una separazione terribile tra il sapere e il lavoro. E questo invalida non soltanto quindi le capacità stesse delle persone, ma rende anche il mondo del lavoro una meta che viene in qualche modo costruita sulla base dell'acquisizione esclusiva di denaro. E questo fa sì che spesso e volentieri si scelgano, si desiderino dei lavori in cui la competenza sia un accidente e non una base di costruzione della propria personalità lavorativa professionale. È rivoluzionaria, a mio avviso, questa semplice visione della politica culturale. È rivoluzionaria proporla nel nostro paese, perché significa rovesciare fondamentalmente una visione di obbligo in un diritto del cittadino. L'uguaglianza di opportunità formative all'interno della vita stessa, in tutte quindi le fasce di età, permette al cittadino di avere un'abitudine mentale a pensare la competenza e la crescita della competenza come una forma di diritto di cittadinanza e di aumento delle proprie capacità di scelta, quindi di qualità della vita. O affrontiamo il problema della formazione e delle uguali opportunità, considerandole quindi come un diritto da rivendicare, o siamo una popolazione condannata all'immiserimento culturale, all'immiserimento economico, e che non solo vedrà i propri cittadini più giovani emigrare continuamente cercando lavoro all'esterno del proprio paese, ma soprattutto continueremo ad avallare una visione distorta del rapporto tra lavoro e conoscenza. E questo non inficerà soltanto il mondo economico, ma anche il mondo delle relazioni sociali.